Huyelele ma, huyelele ma, masia chavula tina. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Zimbabwe. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Zambia. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Malawi. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Mozambique. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Angola. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Botswana. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Lesotho. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. Swaziland. Helele ma, helele ma. Au ye. Helele ma, helele ma. South Africa. Helele ma. Siya jabula tina, helele helele helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele helele helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Morocco, helele mama, helele ma. O Somalia, helele mama, helele ma. O Ghana, helele mama, helele ma. O Nigeria, helele mama, helele ma. O Gambia, helele mama, helele ma. O Sierra Leone, helele mama, helele ma. O Kipiti, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Africa, helele mama, helele ma. O Zimbabwe, helele mama, helele ma. O Zimbabwe, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Siya jabula tina, helele helele ma. Siya jabula tina, helele mama, helele ma. Ciao a tutte e tutti ed eccoci di nuovo a Uru dopo una settimana che abbiamo saltato per dare spazio all'ACK Meeting, che spero avete sentito qualche diretta perché sono state veramente molto interessanti. Ritorniamo a noi, parliamo della puntata di stasera e scopriamo di cosa parleremo. Parliamo della quella si può definire, almeno da noi non c'è una definizione ben precisa fortunatamente, ma diciamo la nuova canzone nordafricana, la nuova canzone magrebina o comunque le canzoni che hanno accompagnato le varie primavere arabe che si sono susseguite nella parte settentrionale dell'Africa, che hanno accompagnato ma che nello stesso momento parlano di queste rivoluzioni: Egitto, Tunisia, Algeria e ultimamente tuttora in corso e in una forma veramente terribile, almeno per il momento, in Sudan. E infatti il primo pezzo che vi facciamo ascoltare è di Emel Matludi. Sì, Emel Matludi è nata nell'82, è una cantautrice tunisina molto nota per le sue canzoni di proteste. Una delle più famose è Ya Tunes Ya Meskina, e cioè Povera Tunisia, e Kelmiti Orra, La mia parola è libera. Questa specialmente, Kelmiti Orra, è diventato l'inno della rivoluzione tunisina. Ha iniziato a cantare e recitare da quando aveva 8 anni in un sobborgo di Tunisi, e ha scritto la sua prima canzone quando ne aveva 10. Ha scoperto le sue decisamente notevoli capacità vocali a 15 anni e nell'occasione delle rivolte di piazza, nella rivolta di quella che poi è stata chiamata appunto la rivoluzione tunisina, è uscita come una delle più conosciute e più amate in Tunisia. Tra l'altro, la canzone Kenti Orra è stata anche registrata in Avenue Habib Bourguiba, una delle principali strade di Tunisi, proprio cantata proprio dai manifestanti, ed è diventato un video virale. Ha tenuto tanti concerti. Di lei ci ascoltiamo Nata in Palestina, e vi dico un attimo il testo. Nata in Palestina, non ho posto e non ho un paese, non ho casa, con le dita accendo il fuoco e con il mio cuore canto per te. Le corde del mio cuore piangono. Sono nata in Palestina, sono nata in Palestina. Para todo el mundo. Filastin, Maulut fi filastin. e siete all'ascolto di Radio Wombat. Questa è Uru alle 21.30 del venerdì, la diretta. Le repliche le potete ascoltare alle 11 la domenica sera e alle 8.30 il lunedì. Vi ricordo che se avete perso qualche puntata potete guardare sul sito wombat.noblogs.org e ascoltare o scaricare i podcast di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Mi raccomando, ascoltateci anche in AM all'1359 nei dintorni di Firenze. E appunto stiamo parlando dei pezzi musicali che accompagnano o che hanno accompagnato o che parlano delle rivoluzioni negli svariati paesi del Nord Africa e, come detto precedentemente, attualmente in Sudan c'è una situazione del genere. Ma come sempre le notizie sono scarse e frammentarie e molto spesso, e anche in questo caso, si rifanno a quello già successo precedentemente, mentre invece chiaramente, così come le altre, anche la rivoluzione, le proteste, gli scontri si stanno susseguendo in Sudan, hanno la loro particolarità. La particolarità è che, a differenza di Algeria, Tunisia, Egitto, sebbene anche qui ci sia stato un casus belli, però tutto nasce precedentemente da quello che vi abbiamo già parlato in alcune trasmissioni precedenti di Uru, da un'organizzazione forte, quartiere per quartiere, nei quartieri popolari, un'organizzazione dal basso, un'organizzazione orizzontale, e che ha fatto in modo appunto che nel momento in cui c'è la caduta del tiranno, in questo caso Omar al-Bashir, diciamo, la gente, le proteste non rifluiscono, e nel momento in cui una giunta militare, come sta succedendo attualmente in Sud, prende il potere e promette nuove elezioni a breve, la società civile, in questo caso organizzata, non ci sta. E purtroppo, proprio perché, a differenza di altre situazioni, l'Europa non ne parla, e a tutti interessa che, a tutte le potenze, le grandi potenze, interessa che rimangano i militari al potere, perché detronizzato, diciamo così, messo da parte Omar al-Bashir, che è stato per tanto tempo, e lo era anche fino a recentemente, uno dei diavoli, e così in Sud, uno dei paesi canaglia. Con la presa del potere da parte dei militari, tutto ciò chiaramente in seguito alle proteste popolari si è acquietata e si sono spenti i riflettori su quello che accade in Sudan, anche perché gli interessi sono tanti, e in particolare di Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita. E alcuni giorni fa il presidio popolare, che il presidio fisso che stazionava, era presente davanti al palazzo dove risiede la giunta militare, è stato attaccato e è stato un massacro. All'inizio veniva data la cifra di 13 morti, poi via via sono saliti fino a che le ultime notizie, seppur non verificate, parlano nell'ordine delle centinaia di morti. Arresti e vere e proprie retate a Khartoum, e anche qui c'è una distorsione della notizia, perché i pochi media ne parlano di vere e proprie retate a Khartoum e della vicina città gemella sull'altra sponda del Nilo, Omdurman. In realtà Omdurman è una parte di Khartoum ed è il quartiere popolare, un grandissimo, un estesissimo agglomerato in cui appunto si sono sperimentate queste forme di organizzazione dal basso. E appunto quello che trapela poche notizie, anche perché, come tutti i massacri non sono graditi agli occhi indiscreti, il paese è oscurato, sono stati chiusi i social network, anche internet, e di fatto è in vigore il coprifuoco. Il regime, insomma, ha gettato la maschera, e nonostante tutta l'opposizione riunita nell'Alleanza per la Libertà e la Democrazia abbia già annunciato che le proteste continuano. E tra l'altro alcune immagini, malgrado la censura dei generali, escono dal paese, e una mostra il quartier generale delle forze armate difeso da decine di veicoli militari, mentre nelle zone periferiche di Khartoum, in particolare appunto a Omdurman, arrivano appunto attraverso le maglie della censura foto di barricate erette nelle strade, ma barricate proprio di mattoni, insomma. E quindi questa opposizione fortissima, radicata e continua nel tempo, nonostante i massacri, sta continuando ad andare avanti, e le richieste, tra l'altro, non solo, non erano solo di la cacciata del tiranno, in questo caso Omar al-Bashir, e ora della giunta militare, ma hanno una, come dire, dei punti, un'articolazione che tra l'altro vede, tra le altre cose, la fine, diciamo, del monopolio religioso e la messa al bando di tutti i divieti, in particolar modo nel campo culturale, come per esempio il divieto di libri, della musica e via dicendo, oltre chiaramente a tutte le richieste più, tra virgolette, prettamente economiche, anche perché, diciamo, la protesta vera e propria è iniziata proprio con uno sciopero generale contro l'aumento del pane. E ritornando appunto in campo musicale, il prossimo pezzo è di Rasha. Sì, Rasha, il nomignolo di Rasha Sheikh Eldin, nata nel 71 a Khartoum, cresciuta sempre nella capitale, la capitale in cui si scontrano da sempre i mondi della musica islamica nubiana e nera africana. Lei viene da una famiglia di musicisti e emigrò in Spagna per sfuggire alla guerra civile. Il pezzo che sentiamo combina le tradizioni musicali del Sudan e del Sud Sudan. Rasha, tra l'altro, ha fatto anche delle cose in reggae. Proviene da una grande famiglia che comprende intellettuali, artisti, musicisti, e tutti nella sua famiglia hanno lavorato in un modo o nell'altro nel campo musicale. Di lei ci ascoltiamo Azara Alai. Zara al-Hay. Dicevamo, il 3 giugno scorso l'esercito sudanese ha sgomberato il presidio. La coalizione sudanese Forza della Libertà e del Cambiamento accusa il Consiglio Militare di golpe contro la rivoluzione, annuncia la fine di ogni tentativo di trattativa e dichiara lo sciopero generale e la disobbedienza civile fino alla caduta del regime. Adesso vi leggiamo il comunicato che hanno fatto proprio in quell'occasione. Quindi il comunicato sulla fine delle trattative con il Consiglio golpista e appello alla disobbedienza civile. Le forze della libertà e del cambiamento continuano, più unite che mai, a seguire gli sviluppi in merito al massacro criminale contro il presidio davanti al comando militare generale di Khartoum. Dichiariamo dunque che, in base ai dati provvisori, abbiamo perso centinaia di caduti sotto le pallottole del traditore consiglio golpista, mentre i feriti si contano a migliaia. Affermiamo che, primo, il consiglio golpista è il solo responsabile di questo crimine e confermiamo che ha premeditato tale infamia a Khartoum e in altre città, tra cui al-Naud, dove varie forze della celere, l'esercito, la polizia, le brigate e le milizie hanno disperso il pacifico presidio locale. Confermiamo inoltre che nella zona del comando militare generale ci sono solo i corpi degli uccisi, che non abbiamo ancora potuto recuperare. Secondo, dichiariamo la fine di ogni contatto politico con il consiglio golpista e la conclusione delle trattative. Dichiariamo che il consiglio non è più legittimato a negoziare con il popolo sudanese e i suoi leader e membri sono responsabili del sangue versato a partire dall'11 aprile 2019. Opereremo per sottoporli a un giusto processo davanti a una corte imparziale nel corso dell'inevitabile rivoluzione sudanese. Terzo, noi, le forze della libertà e del cambiamento, annunciamo uno sciopero politico e la disobbedienza civile totale e aperta a partire da oggi, 3 giugno 2019, fino alla caduta del regime. Quarto, le forze della libertà e del cambiamento si appellano ai membri integri dell'esercito e della polizia affinché compiano il loro dovere di proteggere il popolo sudanese dalle milizie del consiglio golpista e dalle sue gang criminali e si mettano dalla parte della volontà popolare di rovesciare il regime e instaurare un organo transizionale pienamente civile. Quinto, ci appelliamo alla comunità regionale e internazionale affinché non riconosca il golpe e si metta dalla parte delle scelte della rivoluzione popolare sudanese. E Jazz Oil sono appunto un gruppo jazz tunisino che è risultato dell'incontro tra il compositore e bassista Slim Abida e altri cantanti, altri strumentisti, in particolare Nidal Jaoua, lo strumentista e suonare Kanun, e che appunto porta un tocco orientale alle composizioni. E loro due sono accompagnati da altri musicisti come Mamoun Dehane alla batteria, Edison Knight alla tastiera e Amir Mala al sassofono. Il gruppo è stato fondato a Tunisi nel 2008 attorno appunto a un inaspettato duetto di strumenti, basso e kanun. E appunto Nidal Jaoua, che è appunto il suonatore kanun, propone questa nuova tecnica che si basa su questo strumento tradizionale a 78 corde creato nel IX secolo in Medio Oriente. E sono queste scelte appunto che hanno dato a Jazz Oil un'identità e un particolare colore musicale. E tra l'altro il kanun, per ribadire appunto, è uno strumento cordofono a 78 corde della tradizione classe araba e assolutamente non diffuso in Europa. È una sorta di cetra trapezoidale con numerosi cori di corde tese su un piano armonico di pergamena. E la particolarità, tra l'altro, è che la lunghezza di queste corde può essere modificata, viene praticamente sempre modificata prima dell'esecuzione del pezzo musicale agendo su dei piccoli capotasti metallici, cambiandosi l'accordatura in funzione della scala prescelta. E poi le corde vengono pizzicate con due grossi pletti di corde. Infatti se vedete le foto di Nidal Jaoua, ce l'ha proprio come appesa a una collana con questi due grossi pletti di corno. Tra l'altro la differenza qui si rovescia un po' quello che abbiamo sempre detto rispetto alla cora. Nella storia era ed è tuttora conosciuto come uno strumento ipnotico e suonabile da sole donne, anche se poi alla fine dell'Ottocento diventò come una sorta di strumento sacro. E ecco appunto un rovesciamento di ruoli e nello stesso momento diciamo una volontà della parità di genere da parte in questo caso di Nidal Jaoua, che suona questo strumento appunto, che solitamente era suonabile dalle donne. E il pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Lamma. We'll be right back. altre notizie sul Sudan. Una è l'hashtag Sudan Uprising, per chi vuole saperne di più su quello che sta succedendo appunto in Sudan. E tra l'altro la particolarità è che fino a circa 2 giorni fa l'hashtag Sudan Uprising appariva più frequentemente, tutto ciò su Twitter, e chiaramente c'era l'hashtag Sudan Uprising in inglese, un testo in inglese e sotto un testo in arabo, o viceversa, nel senso che era utilizzato, i tweet erano scritti da sudanesi, dagli abitanti di Khartoum in particolare. Ora, negli ultimi 2 giorni, e in particolare oggi, sono tutti scritti in inglese, o quasi tutti scritti in inglese, proprio perché dal Sudan, o comunque da parte degli abitanti di Khartoum sudanesi, proprio di nazionalità sudanese, è molto difficile, e abitanti in Sudan è molto difficile sfuggire alle maglie della censura. Per lo più sono tweet da parte dei giornalisti, oppure da soggetti che abitano in Sudan però non sono sudanesi, o comunque altri persone sono suittite che abitano i paesi limitrofi al Sudan. L'altro aspetto è che per massacro sono stati utilizzati queste milizie pro-regime, i Janjaweed, che erano state create appunto da Omar al-Bashir. Janjaweed significa diavoli a cavallo, per reprimere la rivolta nel Darfur. Erano stati costituiti da Omar al-Bashir e ora sono al servizio e utilizzati da parte del regime attuale, da parte dei militari. E tra l'altro erano stati accusati, insieme appunto a Omar al-Bashir, di genocidio e crimini di guerra dalla Corte Penale dell'AIA. E come abbiamo detto precedentemente, i principali sponsor da un punto di vista proprio statale dell'attuale giunta al potere sono Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, con Riyadh che ha gonfiato 2 giorni fa le casse dei generali con 3 miliardi di dollari, specialmente in forniture di armi. Un via libera più che esplicito per i militari, che appunto si sono subito affrettati ad onorare. E tra l'altro, tra le prime cose, è stata chiusa subito la TV del Qatar, che appunto è un grande nemico di Riyadh. E al di là comunque di queste manovre, diciamo, sovranazionali, sta di fatto che l'opposizione al regime in questo caso è tutta popolare, non ha sponsor altri paesi, e appunto da questo punto di vista è poco pubblicizzata, a differenza di quelle per esempio in Tunisia o in Egitto, e conseguentemente molto più a rischio, molto più rischiosa. E ci spostiamo adesso in Egitto con una cantante, Dina El Wedid, nata a ottobre del 1987, è cantante, compositrice, chitarrista, musicista, attrice e narratrice egiziana. Nata e cresciuta a Giza, ha studiato letteratura orientale e faceva la guida turistica in Egitto, a Giza, giusto appunto. Quando ha cominciato a uscire la primavera araba del 2011 in Egitto, praticamente lei ha fatto un gruppo, ha fondato un gruppo musicale di 6 membri oltre a lei, l'El Wersha, e con la sua canzone che si chiama Kalina Nelan, Fateci Sognare, è diventata famosa, è diventata un inno anche qui della primavera araba egiziana. Ha suonato e cantato con Gilberto Gil e partecipa a The Nile Project, un'iniziativa musicale e ambientale che riunisce musicisti e pensatori provenienti da tutta la valle del Nilo. Quindi lei ha partecipato con una sua canzone, Yaganobi, cioè che vuol dire il mio sud, in cui canta il rimpianto di aver perso, di essersi disconnessa dal Nilo del sud. E questa canzone è un'espressione musicale del collettivo, della necessità di essere un collettivo, di riunirsi e riprendere le relazioni interrotte all'interno degli ambienti culturali e naturali. Di lei ci ascoltiamo Tetawara Bu Terga. قررت تعشق ملاك يلي عشقت الملاك حتى الملاك صدق يسيبك وأول ما حبك يسيبك تخاف Jimavi Africa è un gruppo praticamente sconosciuto in Europa, negli Stati Uniti, al di fuori dell'Algeria, se non in alcune parti della comunità magrebina in Francia, anche se appunto in Algeria è diverso. Dalla sua fondazione circa 6 anni fa la band ha acquisito sempre più importanza ed è sempre più conosciuta, in particolare dalle giovani generazioni algerine. Le particolarità di questo gruppo sono due. Una è che parte e tuttora utilizza i suoni della gnawa, che è un particolare tipo di musica di questa parte del Maghreb, appunto in particolare dell'Algeria, che ha dei ritmi proprio trans, proprio tribali da questo punto di vista. L'altro è che appunto, come il nome stesso dice, è che questo gruppo si rivolge in particolare alle origini africane dell'Algeria e a Abdou Primer, che è il leader, diciamo, del gruppo, il chitarrista, sostiene appunto che per loro l'arabità non deve prevalere sull'africanità, e questo appunto è di questa particolarità è impregnata la loro musica. In Algeria, appunto, sostiene Abdou Primer, esiste un serio problema di identità dei giovani. Alcuni si rivolgono all'Occidente, altri alle tradizioni arabe, ma noi pensiamo che occorre guardare anche altrove. Perché appunto non esplorare la nostra africanità? È vero che abbiamo i piedi nel Mediterraneo, ma nello stesso momento il corpo è nel continente africano. E continua a sostenere appunto che, nonostante ciò, questo non vuol dire il rifiuto di altre forme musicali algerine, e in particolare, come abbiamo detto all'inizio, della Gnawa. L'influenza della Gnawa è ancora molto importante per l'Algeria, e quindi continua Abdou: integriamo il suono della Gnawa e i suoi strumenti tradizionali come il gwembe, il carcabus, eccetera eccetera, con le percussioni africane, che appunto stanno alla base di gran parte della musica del continente. E di loro vi facciamo ascoltare un pezzo particolare, o meglio, particolare è il modo in cui è stato registrato e diffuso. In realtà non è, è una sorta di live, anche se poi non era concepito in questo modo, ed è la registrazione fatta a un porto di Algeri con alcuni pescatori della zona, in cui appunto loro integrano le voci di questi pescatori il loro pezzo, che si intitola Ishish e poi Ashish. C'est bon for you? On commence. Allez, vas-y, allez. Je fais partie de l'Algérie. Simple et standard. Mouatan qui m'a l'gâché. N'khdem choumer f'd'ar. Ou bien un petit salarié. Rani f'l'houm andor. On sait jamais que j'may ben f'tor. T'khmami f'l'babor. Ou la visa t'chbih li l'passeport. Rani n'gavr f'l'papiche. T'arfouni Algérie marratiche. بتبلعيط وتخربيش نكدب وشهف باش ما تفيق ليش ميكم داب ما يقبلونيش جنرال مون سيدي في دوريش وانا يا ما فورنيش زوالي افن عيش هي عايشة في الريش وانا عشايا حشيش وفاشيش هي عايشة في الريش وانا عشايا حشيش وفاشيش وانا عشايا حشيش وفواشيش هي عايشة في الريش وانا عشايا حشيش وفواشيش ويدا ما امنتونيش ضربوا دور الحومة وما ديرونجيونيش سوا تلقاوني ندور سوا في الليل طايح مور بأبي طرواخ الوي اي بيان سور مرسوقنا وايدور واي الي واي اي واي الي صلوا على النبي واش سالوا اجنبي بيتونا هيا مراد الله وعطل بديف الله يا رجال الله يا رجال الله ويا بوري يا بوري يا بو المرسى يا بنا موسى وبابا موسى الله الله الله يا مراد الله وصلوا لنا بنا ويا ولي ويا ليا ونعشى يا حشيش وفواشيش هي عايشة في الريش بوركوا با نجيبها معاها وانا تاني نعيش سيبو عولت انا نروح نخطب ما كان له نهرب مع بنت بلادي نجرب قال لك قاع ريح خطيك متمهبل سي تان انجاجمون سي با فاسيل اي ماما جي با فريمون لو شوا دونك مون كور اي مون كور اون توجور فروا اي ماما وي زافير اون ازاق دونك مون كور اي مون كور اون توجور فروا عيت مرقادي وحدي طول الليل انا نوي الخير وربي يعمل تاويل عيت مرقادي وحدي طول الليل انا نوي الخير وربي يعمل تاويل ديت العجوز ورحت نخطب قلت لها طاكسي والقاطو من عندك انا عليا نجيب النوار بوكي قري وصام الحومة يفري لافات انا طيح الاخشين وهارب وانتي يا زيدي شويه من عندك قولي وليدي هضر غير بالمليار لو كان جات دنيا دنيا راني اوم دافر راني اوم دافر راني اوم دافر وخلطها بلي زفر اي والله جيري لي زفر اي ولي زفر تاع الريح اي والبحر بحر راهو مليح اي ولي زفر تاع الشتا اي ولي زفر تاع الخروطو اي ولي زفر تاع الشيبا اي ولي زفر تاع الدراهم صافير تاع المعارف يو طير طير طير اي قرات في بلاد اي في بلاد الخير يو طير طير طير اي قرات في بلاد الخير وين ام ضفر كم صحيتو تاع لي زون تاع لي زون لي زون ضفر هادي افير دوم هادي شايف الله E vi ricordo che state ascoltando Radio Wombat, per la precisione Uru, la trasmissione che parla di musica africana, che va in onda alle 21.30 del venerdì con le repliche la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8.30. Vi ricordo il sito wombat.noblogs.org dove potete ascoltare la diretta anche, oppure potete ascoltare e scaricare tutte le puntate precedenti dal menu podcast. Per contattarci, per scriverci qualunque cosa, il posta wombat@insiberia.net. Per seguirci su Twitter Radio Wombat Fi. Se vi piace questa trasmissione, quindi volete rimanere un po' aggiornati sull'Africa, potete seguire anche il profilo Twitter di questa trasmissione uru-rw di Radio Wombat. E la famiglia Mosba è una famiglia nera tunisina che combatte il razzismo proprio paese, appunto Tunisia, anche e soprattutto attraverso la musica. A seguito di un incidente d'auto con un furgone militare, il cantante tunisino Sabri Mosba è stato messo in carcere per aver attaccato la dignità dell'esercito. Dopo essere stato rilasciato, ha pensato ad andare in esilio perché era l'unico modo per sfuggire al razzismo in Tunisia, ma è tornato indietro, ha voluto continuare comunque a portare avanti la sua lotta e ha chiamato ed ha accusato il ministro della cultura per aver complottato e metterlo in prigione. Di conseguenza il ministro ha fatto pressioni contro di lui e ha continuato a subire e sta continuando comunque a subire attacchi repressivi. Anche il padre di Sabri, in questo caso Slam Osba, è un attivista antirazzista. Slam Osba è un famoso, è un cantante dei fan Shabi, che tra l'altro Shabi è un genere musicale influenzato dalle regioni rurali tunisine, con origini che possono essere ricondotte alla musica beduina. E è diventato famoso Yamma la Smarduni, una canzone in cui si lamenta la prevalenza del razzismo in Tunisia. E tra l'altro a sua volta Yamma la Smarduni è un rifacimento di un pezzo che era stato scritto originariamente per celebrare l'abolizione della schiavitù in Tunisia nel 1846. Quindi abbiamo Sabri Mosba, figlio, e Sla Mosba, che è il padre. La moglie di Sabri Mosba, Sadia Mosba, è una delle più importanti attiviste antirazziste in Tunisia. Ha creato l'organizzazione Mehmeti, che organizza iniziative e dimostrazioni per combattere il razzismo. E anche lei è stata perseguitata dalla polizia, appunto, per l'aver organizzato e continuare a organizzare queste iniziative. La storia dei maghrebis neri è lunga e complessa. La popolazione nera che vive nella regione, in Tunisia, arrivò attraverso la tratta degli schiavi arabi, e in Tunisia si stima che siano tra il 10 e il 15% della popolazione, anche se nessuna statistica è ufficialmente disponibile. È una minoranza che si cerca in tutti i modi di rendere invisibile, anche perché è un paese in cui la segregazione, la storia della segregazione è ancora molto viva, e dove i neri sono ancora considerati stranieri nel proprio paese. I neri tunisini comunque stanno continuando a combattere, appunto, per i propri diritti. E in questo contesto esecutori, cantanti conosciuti come Sla Mosba oppure come Sabri Mosba, appunto, il figlio, che non hanno paura di combattere per le loro idee, è importante. E di Sabri Mosba vi facciamo ascoltare un pezzo acustico, perché appunto fa parte della tradizione musicale di questo popolo che vive all'interno della Tunisia. Il pezzo si intitola Masit Kitch Session. ضيعت الايام والشمره عمري ما نسيت اصل البارود والنغرة اخر اللي منامة في الحفرة زي الملامة يا سمرة عمري ما نسيت اصل البارود والنغرة اخر اللي منامة في الحفرة زي الملامة يا سمرة عمري ما نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت هو اللي مالي مالي والزاد ما هو زادي هو الوقت وقتي والبلاد بلادي هو الأصلي أصلي وعبد ما هي عبادي هو الأصلي أصلي وعبد ما هي عبادي هو الأصلي أصلي وعبد ما هي عبادي أصل البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زايد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت. E questo era l'ultimo pezzo della scaletta di stasera. Ci sentiamo presto. Ciao a tutte e tutti. Siya chabula tina, siya chabula tina, siya chabula tina, siya chabula tina. Oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania, oh Ghana, oh Nigeria. Siya chabula tina, siya chabula. Siya jabu latina, helele mama, helele mama, siya jabu latina, helele mama, helele mama.